Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui cari ascoltatori, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan, ebbene sì, ci siamo con tutti voi, con la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, col nostro Leonardo Manera che arriverà chissà se in video dalle 9.30, chissà se in video, in vestaglia oppure no. Signori, c'è anche un uomo che oggi compie gli anni, almeno 25, forse 26, il nostro Alpino in regia. Il cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera. Noi Alpino lo festeggiamo così. Mica la Carrà, tanti auguri a te. Insomma, ecco, il nostro Alpino. Quanti sono Alpino? 25 o 26? Non ricordo bene. 20. Ah, scusa, ti ho dato qualche anno in più, va bene. 20 anni per il nostro Alpino in regia. Allora ci siamo, 800 24, mi sa che ha mentito un pochettino. Bah. 800 24 0024, questo è il numero per intervenire in diretta. Se volete mandarci messaggi WhatsApp, lo sapete, 349 238 6666. Siamo anche in mail collegati con voi, 100milan@radio24.it. Vai, auguri Alpino. Enthusiasm about the future. Allora, io per dire che non sono assolutamente contro l'idea, cioè non sono scettico, ecco, non sono scettico a priori, quindi sono come Carlo Cottarelli che dice oggi sulla stampa: ci sono tanti dubbi sull'utilità di tale evento sono gli stati generali. 10 giorni di stati generali. Uno potrebbe pensare: ma ci sono i programmi di governo, ma c'è il Parlamento, come dice Giorgia Meloni, cioè venite qui a discutere delle leggi, ci sono i decreti legge, ci sono i consigli dei ministri. No, gli stati generali. Non sono scettico, però, come dice Cottarelli, attendo. Ho il minimo dubbio, mi si è permesso il minimo dubbio che possano essere scarsamente utili, non dico una perdita di tempo, ma così una kermesse molto coreografica. Ma si possono fare le cose anche senza 10 giorni di riunioni con l'intero mondo schierato a parlare, l'intero mondo a dibattere con 4B, seguirà dibattito, ricordate come nei cineforum. Però qualche punto è interessante. Perché cito Cottarelli? Perché segnalo oggi sulla stampa, Carlo Cottarelli fa emergere 3 criticità della questione Colao. Il primo: mancano i costi. Quanto costano tutti i punti suggeriti da Colao? Non si sa. Si dice che 83 su 102 devono essere finanziati dagli soldi pubblici, ma quanto? Boh, punto di domanda. Il secondo punto è la riforma della giustizia, che è sicuramente centrale anche nel piano Colao. Il terzo punto è critico per Cottarelli, è che c'è l'ennesimo condono, o lo chiamiamo voluntary disclosure, come volete, insomma, i capitali all'estero, il condonone. Certo, c'è da dire che Carlo Cottarelli, proprio lui, ex commissario alla spending review, uno dei tanti, un pochino scettico. Vedremo un po' come andrà. Comunque, viva gli stati generali che inizieranno venerdì, 10 giorni. L'Italia, grazie a questi 10 giorni di dibattito con 6B, sicuramente risorgerà e pianificherà il proprio futuro economico per i prossimi 50 anni. Ne sono certo, bisogna essere ottimisti. Dai, linea Boris, del regista di Boris. Dai. Per il resto non lo so, avete sentito il professor Crisanti poco fa da Simone Spezza e Maria Latella sulla questione degli asintomatici? Ragazzi, Io voglio dire, io non conosco l'OMS, ma l'ennesima uscita di una tecnica dell'OMS si chiama Maria Van Kerkhove, che ieri ha detto, poi ritrattando un pochettino, che forse gli asintomatici non trasmettono l'infezione. È molto raro che capiti. Poi si è corretta, perché si è resa conto che forse in base a questa opinione tecnica avremmo recluso miliardi di persone in casa sulla presunzione che anche gli asintomatici, pur non manifestando quindi sintomi, possono essere rischiosi per l'infezione, e poi adesso ci dicono ma no, è molto raro. Giustamente oggi Massimo Gramellini dice e scrive sul Corriere: se la epidemiologa dell'OMS avesse ragione, ma non ce l'ha, saremmo stati dei mostri a negare ai nostri bambini senza un filo di tosse di incontrare i nonni nel terrore che li potessero uccidere. Se gli asintomatici non sono contagiosi, ma lo sono, devono esserlo, sarebbe stato sufficiente chiudere in casa i sintomatici, consentendo agli altri di uscire e al mondo di respirare, sia pure con la mascherina. Accortasi di averla sparata grossa, Van Kerkhove si è affannata a precisare che è presto per arrivare a conclusioni definitive, ma si è sicuramente sbagliata, come si è sbagliato un suo illustre collega nell'affermare che più sintomi hai, più sei contagioso, e quindi meno ne hai, meno lo sei, perché se avessero ragione, ma non ce l'hanno, significherebbe che in mancanza di certezze scientifiche sarebbe bastato isolare i sintomatici, invitando gli altri a vivere con prudenza, che è pur sempre vivere, invece di sbattere agli arresti domiciliari l'umanità intera, riducendoli in vasti strati in miseria per una A di troppo. Non lo so, Crisanti ha detto che è una boiata pazzesca, lo traduco quello che ha detto il rappresentante dell'OMS, però ragazzi, su questo tema del coronavirus bisogna stare molto attenti. Oggi ho citato La Stampa per l'articolo di Carlo Cortarelli, mi ha colpito molto un altro titolo della serie Come nascono i titoli, l'intervista ottima intervista di Paolo Mastrolilli a Anthony Fauci, che è responsabile in America e litigando anche spesso con Trump della vicenda coronavirus, è uno dei massimi esperti al mondo. Anthony Fauci dice, ragazzi, testuale nell'intervista, la domanda, la seconda ondata ci sarà, dobbiamo aspettarcela, risponde Anthony Fauci: le future infezioni sono inevitabili. Bisogna avere personale, test e risorse. Se avremo personale, test e risorse, potremo evitare che diventi una seconda ondata. Titolo a caratteri cubitali: in autunno una nuova ondata. Ma non ha detto così? Cioè, poi dopo terrorizzate le persone se scrivete in autunno una nuova ondata. Poi vai a leggere l'intervista e c'è scritto che se ci attrezziamo possiamo evitarla questa seconda ondata. Titolo a caratteri cubitali: una nuova ondata in autunno. Poi la gente va in giro, la guardi negli occhi e ti dice che è terrorizzata. Per forza. D'altronde devo dire che ci sia un pochino di così incertezze, lo racconta anche una storia che ci porta alla prima ospite che è con noi. La storia viene da Pesaro, è stata ben raccontata ieri dal Quotidiano Nazionale, riguarda il cosiddetto popolo Novax. Ricordate la vicenda mentre chiedo alla Pino se mi può togliere il prescolto perché è fastidissimo e sento la mia voce, grazie. Ricordate la vicenda che c'è stata di recente di tanti famiglie, tanti genitori che hanno portato a scuola senza le dovute vaccinazioni come previste dalla legge i loro figli. Ci sono state delle denunce. Saluto per questo il procuratore di Pesaro, Cristina Tedeschini. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Perché la vicenda che è finita sul Quotidiano Nazionale è questa: 50 denunce, 30 fascicoli sono finiti a un giudice per indagini preliminari, vale a dire Giacomo Gasparini, e sono state prosciolte queste persone. 20 fascicoli sono finiti al GIP Francesco Messina, credo che siano vicini di stanza, e questi qui sono stati condannati. Il reato è lo stesso. Procuratore, ci può spiegare agli ascoltatori come sia possibile? Sì, Direi che non c'è assolutamente niente di patologico in realtà, e questo mi richiamo un attimo alla sua osservazione sui titoli. L'unica cosa che non è buona, direi, di come è stata riportata dalla stampa la vicenda, è l'occhiello: la legge non è uguale per tutti, che lascia poi il lettore con questa idea di disorientamento e di diseguaglianza. La vicenda della non uniformità di un primo giudizio su un caso che oltretutto è molto nuovo, non ha giurisprudenza dietro, direi che è ordinaria, anzi è la ricchezza della giurisdizione, no? Che si forma attraverso i ragionamenti, i confronti delle idee, si arrivano a delle decisioni che poi sono intermedie quando si tratta di questioni di diritto, perché questa poi è veramente una questione di diritto in realtà, sì. E poi abbiamo un riferimento che è la Cassazione, a cui quando riusciamo a portare le questioni dà poi delle risposte. No, lei ci sta spiegando insomma che c'è una discrezionalità, cioè non è un robot chi applica legge, no? Non è né un computer né un robot, però i reati erano proprio uguali, no? Il reato è sempre lo stesso e anche la condotta è la stessa, però è stata diversa la valutazione dei giudici sui fondamenti giuridici di questo obbligo che è stato violato, perché la norma sta girando molto in questo periodo. Questo 650 CP è stato utilizzato inizialmente anche dal legislatore Covid per sanzionare penalmente tutte quelle inosservanze, no, a tutti i vari ordini che sono stati dati per contenere il contagio. In una primissima fase sono stati tutti quanti qualificati così, come articolo 650 del codice penale, in osservanza degli ordini legalmente però dati. Mi permetta di dire, procuratore, che c'è anche un pizzico allora di fortuna per una famiglia capitare su, che il proprio fascicolo capiti in mano a un GIP o a un altro, perché alcuni sono stati assolti e alcuni no. Allora, il nostro diritto, il nostro processo prevede tanti gradi di giudizio, ci sono i mezzi di impugnazione. Diciamo una cosa, che la mia procura in questo caso qui pensa che sia un interesse molto sentito quello di avere una parola dalla giurisprudenza un po' più stabile su queste vicende, e quindi sta cercando di portarla a questo supremo giudice questa vicenda, che di per sé penalmente è poco e nulla. Le nostre richieste erano richieste da 100 euro di decreto penale di condanna. Ricordiamo esatto che la condanna sono 100 euro, cioè non stiamo parlando quella richiesta da noi era solo proprio per puntualizzare e affermare il principio che secondo noi è condivisibile. Poi sarà la Corte di Cassazione, spero, a darci la risposta. Ma è opportuno, procuratore, se io le chiedessi lei cosa ne pensa, nel senso, fosse capitato a lei come fascicolo, avrebbe condannato oppure no? Perché sono 30 e 20, sono due giudici che si sono espressi in modo antitetico, questo non c'è dubbio. Certo, io li ho approvati tutte queste richieste insieme alla mia collega Letizia Fucci, che ha fatto tutto lo studio giuridico sottostante, quindi io penso che la risposta giusta sia la nostra, quindi un accoglimento delle nostre richieste, perché penso che questa cosa sia in diritto fondata. Ci tengo a precisare che niente di tutto questo riguarda le mie convinzioni personali a proposito delle bontà o non bontà dei vaccini. Ecco, la cosa è diversa, ci terrei un po' a dirlo. Non ci stiamo pronunciando. Si giudica nel merito del comportamento delle persone. Esatto, non sulla bontà o meno dell'obbligo vaccinale, non è questo il tema che stiamo affrontando. Lei dice la Cassazione ci aiuti, ecco, si esprime in maniera univoca e dica una parola definitiva, anche per evitare insomma che due giudici possano avere due interpretazioni diverse. Due o tanti altri, perché questa vicenda si è manifestata a macchia di leopardo sul territorio, ma anche sul territorio stesso marchigiano. Io mi sono un po' informata cosa hanno fatto le altre procure e mi è stato risposto in molti luoghi che il fenomeno proprio non c'era, nel senso che la vicenda appare dove è forte il movimento Novax, sì, sì. E che è a macchia di leopardo. Ad altrettanta macchia di leopardo sono state comunque le risposte delle varie procure, perché ci sono procure che hanno archiviato de plano, evidentemente interpretando le norme come è stato, come ha fatto uno dei nostri giudici. Ci sono altre procure che invece hanno proposto per l'appunto decreti penali di condanna con questa seconda orientamento, per cui sì, penso che poi sia una questione interessante. Bisognerà poi capire, ma questo non dipende da lei, perché a Pesaro ci sia questo movimento Novax così, così evidentemente affermato, va bene, ma questa è un'altra vicenda, è un'altra vicenda. Io la ringrazio molto, Cristina Tedeschini, procuratore, grazie per essere stata qui, procuratore di Pesaro. Insomma, ci ha spiegato che rientra nella casistica normale il fatto che due giudici, due GIP, possano esprimersi assolvendo nel caso di 30 fascicoli, condannando nel caso di 20 fascicoli, i genitori che non hanno fatto le vaccinazioni, hanno portato i bambini a scuola, ricordate al decreto Lorenzin, e hanno deciso però evidentemente di non adeguarsi. Allora c'è da dire che ora vogliamo cambiare tema, rimanere in tema coronavirus. Mi ha molto colpito questa notizia del fatto che a Wuhan, secondo le immagini satellitari, lo studio di come i parcheggi degli ospedali erano molto affollati attorno ad ottobre addirittura dell'anno scorso, si arriva a ipotizzare che il virus circolasse appunto da ottobre. C'è da dire che sempre nell'intervista alla stampa di Paolo Mastrolilli a Anthony Fauci, anche Anthony Fauci dice quello che pensano mai tanti, cioè la Cina non è stata trasparente in questo. Io voglio salutare però un medico di base, un medico che è finito sui giornali per avere denunciato, aver detto guardate che anche qui in Italia forse la vicenda è stata un po' trascurata. Pietro Poidomani, buongiorno dottor Poidomani, grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno Milan, buongiorno. Allora, intanto i complimenti per la trasmissione perché la seguo grazie. Sempre. Va bene, grazie, la ringrazio molto. Lei è un medico di base a Cividate al Piano, siamo in provincia di Bergamo, quella provincia che è stata intensamente colpita. E lei aveva detto, da 35 anni, lei ha detto guardate che quando io ho aperto... Perfetto, quando ho aperto a Natale o dopo Natale, a gennaio, ho notato qualcosa di strano dal punto di vista numerico, cioè? Cioè ho notato un'altissima incidenza di visite da parte di pazienti che accusavano tosse persistente e febbre persistente di vari valori. Eravamo in pieno periodo influenzale. Questo è vero. E quindi ciò ha ingannato me, e come penso tanti altri colleghi, sul fatto che si possa essere trattato di una mancata efficace del vaccino anti-influenzale oppure di complicanza di influenza stagionale. Quindi nei casi più dubbi ho mandato le persone a fare delle radiografie al torace dove si cominciava a vedere qualche tipo di addensamento polmonare abbastanza tipico nella zona, però ecco l'incidenza era molto più alta degli altri anni. No, sa perché glielo chiedo? Perché adesso, e forse riusciremo a collegarci con lui dopo le 9.30, dopo la pubblicità, ci sono i parenti delle vittime che vogliono fare anche causa. C'è un commercialista, Luca Fusco, per esempio, che presiede un comitato, noi denunceremo la verità e giustizia per le vittime. Intanto come si fa ad accertare le responsabilità, questo lo vedremo. Lei però segnalò questi picchi anomali, segnalò a chi? All'ASL competente? Io ho segnalato questo, mi sono ammalato di Covid, ho fatto una polmonite interstiziale, sono stato pure ricoverato, quindi avevo tempo un pochino anche per seguire queste storie. L'ho segnalato a un giornalista dell'Avvenire, in cui ho detto provo a chiedere direttamente come giornalista all'ATS perché non hanno fatto dei controlli a campione sull'incidenza tipo di quante radiografie al torace sono state fatte in quel periodo, perché sei nel piccolo un medico sentinella sul territorio, si ritrova delle situazioni anomale confrontandosi anche con i colleghi, eravamo tutti dello stesso parere, dico l'ATS che dirige e quindi sono quelli che dovrebbero dare le linee di orientamento, dovrebbero con un pulsante in un'era digitale dire quante radiografie sono state fatte in questo periodo. Mm-hmm. Cioè almeno far scattare una sorta di allarme a dire c'è certo. Un'anomalia in questi numeri. L'allarme è scattato? No, mi sembra di poter dire che nessuno abbia. Non gli hanno nemmeno risposto, insomma, non gli hanno detto nulla? No, assolutamente, io non ho nessun tipo di risposta. L'unica cosa che so, e questo per vissuto, è che nei 15 giorni antecedenti il mio ricovero, quindi con al centro il famoso paziente 1, no? Sì. Dei pazienti che ho visitato in quel periodo, adesso me ne mancano all'appello 8 o 9 perché sono defunti. In un paesino di 5.000 abitanti con 3 medici sono morti 55-56 persone. Accidenti. Ma lei quando ha notato, cioè si sente tipo di poter dire alla luce di quello che è successo e anche della sua esperienza personale che tutto quello che ha visto, dunque registrato, erano casi di coronavirus? Io mi sento di affermare, ma in piena coscienza, e sono convinto chiunque potrà provare quello adesso anche con i sierologici, quello che si vuole, che il coronavirus, quando è uscito il paziente numero uno, io ho detto cavolo, tutto quello che ho visto prima è coronavirus. E ne sono arci convinto. Questa vicenda come... Eppure giravano le circolari di allarme sia dall'OMS che dagli altri, cioè il professor Crisanti che a metà gennaio... Sì, che era ospite poco fa da Simone Spezia. Cioè. Che ha attrezzato i laboratori con i reagenti del coronavirus a metà gennaio o il 20 gennaio, dà l'idea, secondo me, di quello che si doveva fare. Non è stato fatto, guardi, sicuramente in Lombardia. Dottor, poi domani vedremo. Sì? Esempio, prego. Una piccola analisi. Ai tempi dell'H1N1 c'è stata l'influenza anticipata nei mesi di ottobre-novembre. Io allora ero medico sentinella per l'influenza. Mi arrivava letteralmente durante il periodo influenzale qualcuno dell'ATS che ci portava dei tamponi per cercare l'H1N1. Allora, i tamponi per il coronavirus c'erano già, se ce l'aveva Crisanti, a metà gennaio, avessero fatto lo stesso metodo, ricercando sui pazienti che presentavano sintomi influenzali dei tamponi a campione, avremmo trovato molto tempo prima il coronavirus. Guardi, dottor, poi domani. Io la ringrazio per questa testimonianza. Io credo che se mai ci sarà un'inchiesta, se si procederà su questo fronte per accertare eventuali responsabilità, ripeto, c'è un comitato che adesso chiede giustizia, sicuramente qualcuno dovrebbe un po', dovrebbe ascoltare, insomma, la sua storia, dovrebbe ascoltare la sua denuncia che fece già all'epoca e rimase senza risposta. Io devo andare un attimo in pubblicità, poi ci raggiunge Leonardo Manera, chissà se in video su Facebook, e state qui. 1 nessuno 100 Milan. Io faccio l'avvocato e vi assicuro che tutti questi gradi di giudizio per gli imputati non sono gratuiti, per la procura sì. Questi due giudici che hanno l'ufficio a fianco non potevano scambiarsi qualche parere prima, per favore. Sandro, che ne dicono della Germania? Noi stati generali, 10 giorni di chiacchiere, quelli lì in poco meno di 24 ore, 15 paginette, hanno già deciso e capito come risollevare l'economia. Siamo una barzelletta. Non siamo così pessimisti. Certo, molti sono rimasti colpiti dalla tranquillità con cui il procuratore capo di Pesaro ci ha spiegato che due giudici di stanze attigue sullo stesso reato possono decidere con sentenze opposte. Questo è Leonardo Manera, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Pensa che come anch'io avrei potuto diventare... Ti ha messo non ancora mi il vedi? Pagliaccio? Ma Sandro Fortunati devi togliere, basta sto pagliaccio, poi si offende, basta. Il pagliaccio si offende davvero, ma c'è un problema oggi, sono giustificato perché la giustifica. Sì, mi si è rotta la stampante, allora devo leggere i pezzi dal computer e devo leggere i pezzi senza stamparli direttamente al computer, quindi non mi posso collegare perché altrimenti non li potrei leggere, quindi non è mia pigrizia e o negligenza, è domani, causa di forza domani maggiore. Sarà morta la quindicesima nonna, sì, vabbè. Ok, ecco, va bene, oggi non è in video. Dispiace che non dispiace. Mi si creda mai. Io che sono, no, dispiace, ho vinto la coppa. Punto. Io ho vinto la coppa di uomo più sincero del mondo. Invece mai. Mai mi si crede, non del mondo, d'Italia, ma, diciamo d'Italia. Sentiamo Anna che ci chiama da Brescia e credo che ci voglia stimolare su un tema molto delicato. Anna, così mi hanno detto, buongiorno. Buongiorno dottor Milan e la ringrazio infinitamente di darci voce perché siamo invisibili agli occhi di tutti. Premetto col dire innanzitutto che parlerò di una RSD di cui siamo infinitamente grati e dobbiamo fare un plauso perché sono stati tutti, hanno dato tutto l'anima e il cuore. Spieghiamo, quindi, cioè le residenze per le persone disabili, sì, non RSA ma RSD, prego, esatto. Lo spiegavo per di tutto. RSA in questa settimana si è parlato all'infinito. La RSD non si parla a nessuno, tra l'altro noi non abbiamo avuto nessun contagio né dai ragazzi e né con gli operatori, quindi sono stati bravissimi da questo punto di vista, tant'è vero che il nostro direttore sanitario ha avuto l'eccellente idea di chiudere la residenza ancora una settimana prima, verso il 20 di febbraio. Quindi, cos'è che non va adesso, Anna? Cos'è che non va? Che noi dal 20 di febbraio non vediamo i nostri figli. Mio figlio ha un grave ritardo mentale e quando mi guarda dalla videochiamata che finalmente dopo due mesi hanno cominciato a attuare, è stranito perché non capisce, probabilmente penserà ci hanno abbandonato tutti. Perché cioè dal 20 febbraio lei non vede, sono marzo, aprile, maggio, sono... 4 mesi. Adesso, dopo aver rotto un po' le scatole, ci permettono di vederli dal balcone del secondo piano. Mio figlio mi guarda come se fossi la Madonna di Fatima, c'ha degli occhi che ha proprio bisogno della sua mamma adesso. E noi siamo consapevoli che ci saranno dei genitori che hanno paura che se porto a casa Gianluca lo posso riportare infettato, ma non è questo il nostro scopo. Noi non dobbiamo mettere i nostri figli in condizioni, fisicamente stanno bene, ma psichicamente come stanno? Regrediscono. Certo, io, guardi Anna, per ora quello che possiamo fare adesso raccogliamo questa testimonianza dell'ascoltatrice, non so cosa aggiungere, nel senso è chiaro che sarà una estrema misura di sicurezza, però a questo punto sono 4 mesi che i genitori che non possono vedere, abbracciare i loro figli, in questo caso lei Gianluca, non lo so, Leonardo, ci sono queste situazioni estreme evidentemente. Sì, poi è ancora più grave quando si tratta di persone che hanno delle disabilità di quel tipo, insomma, perché poi... soprattutto che la guarda e non capisce. Anna, cercheremo di approfondire, cercheremo di capirci qualcosa. Quando sono le 9:40 minuti, io adesso però, Leonardo, voglio collegarmi ancora, perché ieri, devo dire, l'ho sentito in serata e all'inizio la voce non mi sembrava quella di una persona estremamente in forma dopo due giorni in bicicletta. Oggi lo vogliamo salutare così, gli abbiamo trovato un mitico. A fare la solita sgambata. Ecco, dove andiamo? Facciamo il giro dei laghi. No, facciamoci il giro delle sette colline. Ma che? Io direi andiamo a cenare da una mia zia Pinerolo. Poi torniamo in nottata. Oh. Scusa, ma sono 1200 chilometri. E che cosa sono 1200 chilometri? Allora, signori tutti, a Pinerolo! A Pinerolo! Mario Calabresi! Non a Pinerolo! Ricordate la Coppa Cobra? Come stai? Com'è la gamba? Com'è la gamba? Benissimo, ero finito, però oggi benissimo. In questo momento ho imboccato la Martesana. Dopo aver preso l'Arco della Pace, ho fatto il centro, Melchiorre Gioia. E adesso la Martesana. Cioè, sei dietro casa mia, potresti venire a bere il caffè alla ridotta di Viale Monza. Potresti venire a bere il caffè a questo punto. Verso Caravaggio, di lì entro nella Bergamasca, risalgo il Serio e arrivo a Nembro. Ma esistono delle foto per essere sicuri che questo corrisponda a verità? Esistono delle prove su Instagram, su Facebook, le metto continuamente. Cioè, sale sulla macchina, fai come Fantozzi, che poi dietro c'ha la macchina e va fino. No, scherzo. Buon Mario Calabresi sta facendo questo viaggio in bicicletta. Cos'è sotto? C'è un trattore che sta. Oppure ti cigola il carter, non lo so. Ti cigola la catena. Ti cigola la catena. Perché la Martesana all'inizio è salpame. Giusto, è vero, quindi stai sobbalzando. Ma come va? Chi è il più in forma lì della comitiva? Allora, chi è il meno in forma? Io, quindi questo va benissimo. Il più in forma fino a ieri era mio fratello Paolo, che però oggi è andato a lavorare, per cui non è venuto. Solo Milano-Torino, Torino-Milano lui. E oggi è andato a lavorare e quindi ci ha abbandonato. Però, vista la mia condizione, io ho aggiunto Enzo, mio compagno di banco al liceo, nonché farmacista, che è stato il fornitore di tutta la farmacia di cui ho avuto bisogno per arrivare fino a qui. Certo. Hai capito, Leonardo, è dopato. Ci sta dicendo che è dopato. Non c'era altra possibilità. Ha buttato giù le bombe. No, allora, Mario Calabresi, ma poi ricordiamo, arriverai a Nembro, ci sarà l'incontro con il parroco. Ecco, adesso noi scherziamo, ma in realtà la bellezza del tuo viaggio è che lo fai per ricucire un po' il territorio colpito e ti incontrerai con il parroco. Va bene, ma noi venerdì sarai con noi? Cioè, ti sarai ripreso? Venerdì sì, guarda, ti dico la verità, venerdì ti tiro il bidone, perché alle 9, nell'ora in cui dovrei essere con te, mia figlia fa l'esame di terza media. No, allora, stupendo! Mia figlia che fa l'esame di terza media online e uno nessuno 100.000. Hai scelto tua figlia. Vabbè, non è che posso. Ma quindi, non è che posso, Mario, darti torto, eh. Rimani lì per suggerire a tua figlia. Dai, questo cattivo esempio. No, dai, dillo, ammettilo. Le lancerai delle occhiate. Le lancerai delle occhiate a dire: non so cosa stai dicendo? Non so se mi vuole presente nella stanza, però sì. Ho capito, non gli posso dire. Sai, mentre tu facevi, io facevo la radio. Era in diretta, hai ragione. No, male. Guarda, anch'io ho lo stesso problema, nel senso, mia figlia Angelica farà l'esame, ma sarà nel pomeriggio e non sarò in stanza a vedere, però poi dopo sarò lì a salutarla. Quindi sei giustificato, è un ottimo. Questa è una giustificazione, Leonardo, questa è una giustificazione. L'esame di terza media della figlia, non la stampante rotta. Questa è una giustificazione. Impara. La mia è causa di forza maggiore, quindi non è una giustificazione. Lasciamo salutandolo Mario Calabresi alle sue pedalate, tutti a Pinerolo. Andiamo al traffico. Questa è una giustificazione, l'esame di terza media. E poi ci sono quelle di Manera, la stampante rotta. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. L'Italietta degli anni Ottanta è quella dove i nostri nonni e i nostri genitori hanno messo da parte, lavorando, la fortuna che i giovani di oggi stanno erodendo perché non lavorano come lavoravano i nostri genitori e i nostri nonni. Le imprese italiane. Ieri ai tempi, di martedì, Salvini e la nostalgia per l'Italietta. Senti, con la liretta. E io mi ricordo sì, a parte buoni italiani, papà, mi ricordo stavano bene i nostri papà. Viva gli anni Ottanta, insomma, dice Salvini. Gli anni, tra l'altro, in cui abbiamo creato questo bel debitone che stiamo pagando più che noi, pagheranno i nostri figli. Però viva gli anni Ottanta. C'erano le spalline, gli uomini facevano bella figura. Io ancora metto ancora le giacche con le spalline. C'era drive-in, spalline, Tini Canzino. Sì. È vero. Sono un informatico, mi offro di andare a sistemare la stampante a Manera, gli chiedo 290 euro meno di Cristiano per la caldaia. Effettivamente, perché non chiami il tecnico della stampante? Così ti fai un altro bel venerdì prodromico al weekend con un altro bel 200 euro di salasso. A noi piace questa cosa. Allora, diretta. Io spiego il problema, così qualcuno magari può risolvermelo così con un messaggio. Praticamente io mando il comando di stampare, dico stampa, e la stampante fa qualche rumore, ma poi non esegue il comando, fa solo dei rumori. E quando deve partire non parte. Quindi il comando arriva, ma la stampante non esegue. E quindi se qualcuno può risolvere una stampante il problema. Di che tipo? Di che tipo di stampante? Ad aghi. Ad aghi. Ci sono le cartucce, sì, tutto a posto. Ci sono le cartucce, l'inchiostro. Questa è l'opinione che si ha di me, va bene. E niente, fa del rumore strano, ma com'è il rumore? Che tipo di rumore? Faccelo sentire tac, dopo. Tac, e dopo magari se riesco ad arrivare. Ah, fa tac tac, non fa grrr, tac grrr, fa tac tac. No, fa tac tac tac, tac, tac, tac. Un po' nervosamente a scatti. Tac tac, sì. Tac. E poi tac, si astiene. Ma va bene, tecnici delle stampanti, che cosa potrebbe essere che fa tac tac tac tac tac tac? Però non parte. Intanto Leonardo, a te il microfono. Allora, qualcuno di voi, molti di voi immagino, avranno visto il film Carlitos Way, la storia di un ex spacciatore interpretato da Al Pacino che cerca di cambiare vita, ritrova l'amore per la donna che aveva amato alcuni anni prima e cerca di scappare con lei a Paradise Island, ma viene ucciso poco prima di salire sul treno che lo avrebbe portato lontano da New York. Quanti di noi hanno sognato, sognano di cambiare vita, di andare ciascuno nella propria Paradise Island, ma poi per qualche motivo, proprio all'ultimo momento, il sogno non si realizza. Questo lockdown per molti è stato un problema, una grande sofferenza che ha comportato e comporta anche problemi economici. Per altri è stata invece l'occasione per guardare un po' dentro se stessi, magari anche con qualche smottamento interiore. Stiamo tornando alla vita normale con l'ansia di fare e di dover fare per rimanere sempre al passo, per guadagnare abbastanza, per pagare le bollette, per pagare la pay TV che poi non c'è tempo per vedere, per non avere cedimenti sul lavoro, per essere sempre all'altezza, snelli, magri, performanti, per avere addominali e culo sodo cercando di ritagliarsi quando si può, quando c'è tempo, qualche decina di minuti per un minimo di poesia quotidiana del vivere, anche semplicemente per dar da mangiare ai gatti con calma. L'odore del caffè, la metropolitana, le mezz'ore in coda al semaforo, quello che va piano appena scatta il giallo e lui passa e tu no, la mensa dove anche il riso in bianco dà problemi di gastrite, quei visi apparentemente normali con l'occhio che però tradisce qualche tic, i figli da accompagnare, da andare a prendere, poi il giorno dopo da riaccompagnare, da andare a prendere fino al venerdì, che poi il sabato hanno lo sport e li devi accompagnare e andare a prendere, che vorresti che andassero da soli ma poi ti senti in colpa.

si fa solo per il business. Adesso trovano la scusa del corona. Ma veramente, quando hanno rinnovato il carcere per Zacchi, veramente stavo anche cenando, mi è andata via l'appetito. Insomma, se ne è parlato effettivamente. Ieri ho visto un articolo, una pagina di Carlo Verdelli, che da Repubblica, direttore del Sei Passato al Corriere della Sera, ha detto: e su Zacchi, ragazzi, cosa stiamo facendo? Sì, c'è stata fatta un po' di pressione, noi ne abbiamo parlato un po' con l'Università di Bologna, però effettivamente poco. I genitori regeni si sono detti proprio traditi, questo uso le parole loro, da questo governo. Insomma, Said, ci stai dicendo che vedi un'Italia che conta zero, anzi meno di zero a livello internazionale come pressioni diplomatiche. Senti, Leonardo, Said, come mette insieme il milanese Tuch? Ma dici qualcosa in milanese, quando... Said? Qualcosa in bel dialetto... Pronto? Said, qualcosa, sì, sentiamo che parli, senti? Anche il dialetto parli anche. Io sono venuto in Italia che avevo 20 anni, ho sempre lavorato con gente del posto, della Lombardia, ho dovuto parlare la lingua loro per forza, nessuno parlava italiano, ero parlato tutti i dialetti. Il problema per me sai qual è? Che io, è una vergogna vedere l'Italia non schierarsi né con Haftar né con gli altri. Prima era con quelli che sono legittimi, poi con Haftar e lì una confusione. In teoria noi saremmo con Serrage come l'ONU, però la Francia con Haftar, insomma, è una gran confusione. Said, grazie di questa testimonianza, insomma, originario del Marocco ma italiano da tanti anni in Italia. Il suo parere. Noi ci fermiamo un attimo per il giornale radio. Nella seconda ora avremo tanti altri temi. State qui. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ai suoi tempi non era possibile, ma oggi Darwin può andare in radio. Qui, su Radio 24, è iniziata una nuova trasmissione. Darwin, l'evoluzione della scienza. Dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Dai robot che cucinano le lasagne alla realtà aumentata per la chirurgia. Dalla scoperta del primo dinosauro acquatico al riciclo dei pannolini. Darwin, tutto quello che si può raccontare sulla scienza. Tre puntate originali in podcast sul sito di Radio 24. Dal 29 giugno on air tutti i giorni alle 20:50. Con Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. 1, nessuno, 100 Milan. Leonardo, guarda che se non metti la carta della stampante il foglio non esce. Manera, per la stampante il metodo Aranzulla. Spegni e riaccendi. Milan, che tipo la stampante? Sarà, gliel'avrà prestata la Lucchetti? Far solo un rumore e poi non lavora. Incredibile. Non lo so se è una stampante. Addirittura la tecnica Lucchetti si può applicare alle macchine. Non credo. Sì, comunque le altre cose che mi hanno detto fino lì ci arrivo anch'io, ecco, diciamo, sì, accendere, spegnere, mettere la carta, c'è tutto. Hai chiamato una signora? Una signora mi ha scritto che potrebbe essere rimasto qualche avanzo di carta dentro, ho controllato, bello, non c'è. È un titolo anche di un libro, avanzi di carta, potrebbe essere. Sì. Era una trasmissione che ho fatto qualche tempo fa, Radio 24, che non seguiva nessuno, Avanzi di Manera si chiamava. Comunque giustamente un ascoltatore dice: ho sentito che ha una stampante ad aghi, la tenga come reperto archeologico. Consiglio, ne compri un aggetto di inchiostro a 50 euro, anzi meno di 50 euro. Ma secondo voi, veramente io la stampante, ho una bella stampante laser. Che però... Non ris- non risponde ai comandi. È pigra. Tac, tac, tac. È pigra, si impigrisce. Va bene. Attenzione, notizia di poco fa, giuro, notizia di poco fa, Paul McCartney ha parlato. Visto che si ascoltano tutti, gli ascoltatori che hanno preso, è scandaloso. Testuale, è veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Parola di Paul McCartney. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Asso Musica hanno fatto. Paul McCartney ha parlato, è scandaloso. Dovremmo richiamare il promoter a questo punto. Nei prossimi giorni magari lo chiamiamo. Ora però, Leonardo, dobbiamo dare parola e voce. Io la saluto con piacere, torna con noi la presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, Giuseppa Cassaniti Mastroieni. Buongiorno presidente, buongiorno. Grazie di essere qui. Buongiorno. Perché quello che è successo a Roma ancora... Ancora una volta, un ragazzo di 14 anni travolto e ucciso, era sulle strisce, aveva appena festeggiato la fine della scuola, da un ragazzo arrestato, positivo alla cannabis. Io non so cosa aggiungere, io so che lei fa sempre questi sfoghi che poi rimangono un po' nel silenzio, presidente Mastroieni, perché... Ha ragione. Cosa si può dire di nuovo? Cosa si può aggiungere di nuovo? Franco, se si potrebbe dire, così come ho comunicato alle istituzioni, che questa pandemia del coronavirus non è l'unica pandemia, c'è un'altra pandemia che continua e che si può chiamare strage stradale continua, perché muoiono 9 persone al giorno e 664 al giorno sono persone ferite, di cui 50 al giorno ferite in modo grave. Ecco, cioè questa è una pandemia. Perché una pandemia? Perché continua nel tempo, cioè è una strage stradale continua. E ciò che mi fa specie è che mentre contro il coronavirus, che è una situazione, cioè una invadenza sulla nostra vita che noi non vediamo e non conosciamo, si sono mobilitate le forze politiche, la sanità, gli esperti, la società scientifica, le società scientifiche si sono mobilitate per questa pandemia che si chiama strage stradale continua. C'è il silenzio su questa pandemia, regna il silenzio delle istituzioni ed sì. È una pandemia di cui noi conosciamo le cause, sappiamo anche i rimedi e tuttavia non prendiamo le necessarie perché decisioni. Perché dice sappiamo i rimedi? Perché sappiamo i rimedi? Perché noi sappiamo che gli elementi che potrebbero, che possono o che debbono o che contrastano la strage e che quindi sostengono la prevenzione sono l'informazione, la formazione, il coordinamento tra le istituzioni, anche il privato, il coordinamento, i controlli e gli interventi nelle infrastrutture. Poi dopo noi possiamo dire che c'è l'uomo, la strada, il veicolo, si può anche vedere sotto questo aspetto, ma io le ho detto queste componenti che sono fondamentali, perché è chiaro che ci vuole la formazione della persona e poi del conducente in maniera tale che sappia quale deve essere il proprio comportamento alla guida, perché quando è alla guida non è solo nel mondo, non è solo sulla strada, è in rapporto ad altri e quindi il concetto di relazione diventa fondamentale nel momento in cui si guida. Ma la cosa sì, che c'è questa frase, c'è questa frase di questo 22enne che è stato arrestato, pare abbia detto ai giornali: papà, ho tirato sotto uno, ma non andavo forte, andava a 90 all'ora, però pare, questo andrà sì, accettato. Ma anche se andava a 90 all'ora, mi faccia dire, io ho letto che era sotto l'effetto di sì, droga e anche di cannabis. Allora la cosa sulla quale vorrei che si puntasse la riflessione è che per la pandemia del coronavirus si è detto che nulla sarà più come prima. E nulla sarà più come prima, loro lo sostengono sul fatto che questa pandemia ci fa riflettere sul valore della vita, sul fatto che questa vita viene distrutta senza avere la possibilità di un conforto umano così in maniera immediata, la persona se ne va via, scompare insomma tra la sofferenza e la solitudine. Ma perché i nostri figli che vengono uccisi sulla strada non è la stessa cosa? Noi non abbiamo la possibilità, a me è stata uccisa una figlia sotto la porta di casa e io non ho avuto la possibilità di confortare mia figlia a 17 anni, ecco, che l'avevo ucciso io, che l'avevo fatta uscire io per premiarla perché mi aveva portato una pagella di 8 e 9, e torna la ragazza assieme al fratello a mezzanotte e viene uccisa dopo essere scesa sulla macchina, dalla macchina, ed era tra la macchina e il marciapiede, cioè interviene una macchina a velocità folle, una Lancia integrale motore rally adatta per le corse, e sbatte con la macchina dalla quale era scesa mia figlia. Valeria viene uccisa e anzi fatta a pezzi. L'altro figlio fortunatamente è rimasto vivo, e il loro amico col quale si stavano salutando, che era in macchina, catapultato fuori dalla macchina, ecco, non viene calpestato dalla macchina perché la macchina saltando cavalca un palo, quindi lui in coma sotto la macchina, mia figlia fatta a pezzi, l'altro mio figlio con conseguenze, diciamo, a livello di ferite, trauma cranico, eccetera. Cioè questa è la situazione che si crea, cioè è la stessa situazione, cioè ragazzi, persone innocenti, genitori o figli, perché nella realtà noi siamo tutti o genitori o figli, poi diventiamo zii, cugini, parenti, amici, ma il rapporto relazionale è tra genitori e figli, vengono distrutti in maniera veramente, senza aver avuto il tempo di riflettere, non per sono vittime innocenti. E allora questo fatto, sì, la pandemia, non mi deve ascoltare questo, cioè la pandemia, sì, se ci ha fatto riflettere sul valore della vita, su questo valore si deve puntare per modificare i comportamenti alla guida. Allora, se le istituzioni continuano a far finta di non aver capito questo, perché debbono continuare a prevalere le logiche di mercato, e caspita, che si rendano persone responsabili, che si rendano persone consapevoli, che hanno in mano la decisione di comunità sociali, che siamo noi, la comunità italiana. Cioè, noi non possiamo sopportare che ci sia la continuità della strage senza flessioni, mentre l'obiettivo è europeo è meno 50% entro il 2020, e noi nel 2018 siamo arrivati al meno 19%. No, ma io devo dire che qua, la riflessione che lei dice, e la ringraziamo molto, cioè se effettivamente questo ha portato a dire riflettiamo sul valore della vita, esatto, allora sì, c'è ovviamente adesso lo sdegno, si dice no, questo quattordicenne, sì, ci saranno sdegno qualche giorno di come le due ragazze uccise a Roma di recente, no? E poi la strage continua, ma il problema è che o si approfondisce il significato culturale di ciò che avviene, perché la realtà è un sistema e quindi tutti gli elementi del sistema interagiscono tra loro, quindi non è possibile dire a parole nulla sarà più come prima quando noi permettiamo i comportamenti di prima. Allora analizziamo le cause: si uccide per eccesso di velocità, perché sotto l'effetto di sostanze o di droga, perché non si rispettano le divieti, diciamo, previsti o i limiti stabiliti dal codice della strada, sì, non si rispettano. E allora quali sono gli elementi che debbono modificare questi comportamenti? Ci vuole una modifica dei comportamenti, ma per una modifica dei comportamenti ci vuole una politica che diffonda significati diversi e comportamenti diversi. Allora i primi a modificare i comportamenti sono coloro che operano nelle istituzioni, non far finta di niente e continuare secondo logiche di prevaricazione, di accordi, ecco, puntare sui significati fondamentali e acquisire che siamo degli elementi fragili e limitati nel tempo. Noi nasciamo, cresciamo e moriamo e rispondiamo di ciò che facciamo, e quindi l'importanza del valore della decisione, delle scelte nostre, in questo si valorizza la persona, qui ha significato la persona. Sì, ecco, io sono assolutamente d'accordo con lei, Presidente, la ringraziamo, insomma, ripeto, Giuseppa Cassaniti Mastroieni, noi l'abbiamo conosciuta varie volte, è venuta qui, insomma, è come si suol dire un fiume in piena, ma positivo e propositivo, perché crede, dopo la vicenda che ha travolto la sua famiglia, vicenda personale, essendo presidente dell'Associazione Italiana Vittime Familiari Vittime di Strada, di portare avanti delle cose per cambiare. Certo, c'è da dire che effettivamente il cliché è il solito: sdegno per qualche giorno e poi attendiamo la prossima tragedia. C'è stato un inasprimento delle norme sull'omicidio stradale. Sì, certo, l'omicidio stradale, però non ha sortito abbastanza risultati. forse non sortisce paura se tante persone si mettono ancora alla guida, poi vengono scoperte quando c'è l'incidente, per tante che vengono scoperte quando c'è l'incidente, molte si mettono alla guida sotto effetto di sostanze e non succede nulla fortunatamente, ma guidano comunque in stato alterato. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi Leonardo, finalmente potremo parlare di questo libro un po', Io sono il potere. Sento quello per il quale partecipe. Vieni prezzolato. Dai, no, pensavo poco, che fossimo già al traffico. Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Leo, siamo messi proprio male, però un uomo romantico come te che non riesce a trovare una donna, dai, ma siamo veramente conciati. Maledetti, quando finisce la quarantena della Fusconi, dove l'avete messa? chissà, magari oggi è il giorno in cui può finire la quarantena di Elisabetta Fusconi, chissà. Allora Leonardo, ma a parte che siamo conciati, sarà conciato Leonardo Manera, basta andare su Facebook, sul nostro sito, a vedere come appare. Sarebbe ora di togliere quella foto sgradevole e spiacevole dal sito, lo dico anche a Sandro Fortunato di togliere Fortunati fa apposta a storpiarla come faceva Emilio Fede con il detrattore. Ma è il mio modello, ragazzi. Emilio Fede è il mio modello assoluto. Avrei voluto diventare come lui, purtroppo non ce l'ho fatta. Ecco, non ce l'hai fatta. Allora, Io sono il potere. Vi ho parlato mai di questo libro? Leonardo dice che sono prezzolato. Non è vero. Hai delle ricche provvigioni, delle percentuali, delle mazzette che ti arrivano sotto banco lì. Chiamerei subito Giuseppe Salvaggiulo, che lavora alla stampa. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. E vorrei chiederti di smentire questa cosa. Giuseppe Salvaggiulo è colui che ha raccolto le confidenze di questo capo di gabinetto in anonimo, ovviamente rimane anonimo. Giuseppe, smentisci subito questa cosa, se no verrai cacciato. Non queste leggende nere. A nome mio e anche del capo di gabinetto nego qualsiasi rapporto con Alessandro Milan di alcun tipo, tanto meno economico. No, io sono rimasto colpito da questo libro, perché è un libro che effettivamente io ho detto, se tu lo vuoi leggere e però pensi di avere poi delle acidità di stomaco, perché è una distruzione di tutto quella che è la nobile arte politica, o meglio, è l'arte politica vista dal capo di gabinetto, ma se uno crede alla politica, come dire, agli uomini che possono cambiare il sistema, poi scopre che il sistema è più forte di loro, Giuseppe. Sì, però visto dal punto di vista del capo di gabinetto è invece la sublimazione dell'arte del governo, è questione di punti di vista. È vero. Cioè il potere è lui l'ombra, il potere che trama ma anche briga in maniera positiva, non solo trama in maniera occulta. Sì, che imbroglia e sbroglia a seconda delle situazioni. Ora bisogna capire se lo fa nell'interesse generale o per interessi particolari e quindi patologici. Ecco. Vedi, quando il Presidente del Consiglio attacca i poteri dello Stato che tramano contro di lui, cominciamo a entrare in quel territorio, in quella penombra in cui si sta creando qualche tensione, mi pare, tra i gran comuni. Infatti notizia di ieri, oggi sui vari giornali, anche la stampa, qualcuno trama contro di me. Quando io l'ho letto ho detto, eccolo qua, vedi che è il momento giusto di parlare, io sono il potere. Chi trama? Cosa vuol dire che c'è qualcuno che trama contro il Presidente del Consiglio? Guarda, la mia sensazione è questa, che la gestione di questa crisi, che viene fatta con nuovi interlocutori, e cioè le task force che sono state, se non ho capito male, una settantina tra ministeri, regioni e enti vari. Adesso abbiamo il piano Colao, gli stati generali, cioè tutto viene portato all'esterno del palazzo della pubblica amministrazione. Sì. Ho l'impressione che i capi di gabinetto non amino questo allargamento della. E Conte perché? Mi pare che se ne sia accorto. Perché il potere a quel punto sfugge il potere, capito Leonardo? I capi di gabinetto si sentono un po' a questo punto quel potere che si allarga. Esautorati del loro ruolo. Ragazzi, perché loro, come racconta il capo di gabinetto nel libro, hanno una loro arte nella gestione di queste situazioni. Quindi non vogliono, come dire, mischiare l'ortodossia che hanno costruito in tanti anni. Sì, è abbastanza, se uno si immerge in questa lettura capisce che il capo di gabinetto deve conoscere le persone giuste, deve frequentare i circoli giusti che sono soprattutto a Roma in gran parte ovviamente, deve anche sapere fare, non so, jogging nel parco giusto, magari nell'ora in cui passa il giudice della Corte Costituzionale per stringere la mano, e è tutto come, ciò come che io non ho mai come gli attori capito. Che frequentano le terrazze, diciamo, per conoscere i registi, ecco, più o meno così. Infatti, scusami, la cosa che più non è piaciuta a Nicolao, al di là del contenuto delle sue idee, dei suoi piani e delle loro riunioni, è il fatto che Colao abbia gestito tutta questa roba qua da Londra. Per i capi di gabinetto tutto questo è inaccettabile, perché bisogna stare a Roma e in quella parte di Roma che loro frequentano. Senti, ma questo libro secondo te a chi è sconsigliato e a chi è consigliato? Perché sai che molti quando ho letto dei pezzettini mi hanno detto ma io, cioè un libro così, se volete che spacchi una finestra dalla rabbia o che spacchi qualcosa fatemelo leggere, perché sai i disillusi della politica ci trovano o quelli dell'anticasta ci trovano da sguazzarci, no? Sì, allora diciamo così, per motivi di ordine pubblico, vista anche la situazione, chi ha già un pregiudizio negativo sulle caste, sul mondo della burocrazia, è meglio che sta lontano dal libro, anche se commercialmente non dovremmo dirlo. Non dovresti dirlo. No, perché verrà confermato nei suoi pregiudizi. Però invece io penso che bisogna leggere queste cose spogliandosi un po' dei pregiudizi e cercando di capire cosa c'è realmente dietro la maschera dello Stato profondo. E serve secondo me per capire bene certe dinamiche anche della fase attuale. Sì. Ma ecco, io ho una curiosità, come si diventa capo di gabinetto? Cioè mio figlio se volesse diventare da grande capo di gabinetto che scuola deve percorrere? Vabbè, come tutti i mondi chiusi un po' autoreferenziali e molto elitari, i capi di gabinetto praticamente non te lo dicono mai. Non esiste una scuola, non esiste un esame, non esiste un albo, non esiste una specializzazione. È una specie di club che nasce da altissime istituzioni, grandi magistrature, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti o l'Avvocatura dello Stato, e si autoriproduce, è quasi un meccanismo più biologico che istituzionale. Per cui ci sono i capi di gabinetto per caso, e si riconoscono dalla faccia, dai modi, dalle giacche, dalle cravatte, dalla breve stagione, e poi ci sono i capi di gabinetto di lunghissimo corso che tra di loro si rispettano e sanno benissimo che in un modo o nell'altro, cambiando i governi, cambiando le repubbliche, loro torneranno sempre per decenni. Ovvio, allora Giuseppe Salvagiulo ovviamente non ci può dire chi sia il capo di gabinetto in anonimo, ma Leonardo, ho scoperto da Giuseppe, ho saputo che esiste, ce lo puoi questo confermare, una riffa tra i capi di gabinetto per cercare di capire chi sia l'autore materiale di queste confessioni. Cioè adesso anche i capi di gabinetto si interrogano su chi possa avere detto e spifferato tutto questo, no? Sì, sicuramente è uno di lungo corso. Sicuramente sì. Ci sono varie teorie che girano a Roma. Sì. E soprattutto mi hanno detto ieri che c'è addirittura un ministro che ha chiesto di partecipare alla riffa perché è convinto di sapere il nome, quindi è sicuro di vincere. Ma davvero, ma è tutto vero quello che si legge, anche i capi di gabinetto che fanno la pratica molto maschilista di Miss Governo, che eleggono la ministra più bella, cioè ci sono delle parti veramente sia spassose ma anche un po' irriverenti, Devo dire anche autoironiche, questo mi è piaciuto perché chiaramente il capo di gabinetto ritiene che questo mondo sia un mondo dorato, fantastico, elitario, però non diciamo, tradisce anche degli elementi grotteschi, un po' pecorecci, anche maschilisti, dobbiamo dire. Sì, no, diciamo la verità, è tutto autentico, non c'è nulla di inventato, certo. Nulla di gonfiato, nulla di enfatizzato. Tutto incredibilmente, anche perché devo dire, io non sarei stato in grado di immaginare aneddoti come quello dei cavalli di Pecoraro Scanio. Facciamo così, dopo la borsa ve lo leggo, perché quando fu ministro Pecoraro Scanio c'è una storia veramente che riguarda cavalli e muli che è incredibile. Allora, io ringrazio Giuseppe Salvaggiulo che ha raccolto queste testimonianze e che sono diventate poi il libro Io sono il potere, confessione di un capo di gabinetto. Per Feltrinelli, dopo la borsa te la leggo questa di Pecoraro Scanio, se la trovo, perché è meravigliosa. Devo andare alla borsa e poi state con... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1. Nessuno. 100 Milan. Allora, sono le 10:37 minuti, voglio dare la parola a Danilo da Firenze, perché poi questa storia di Pecoraro Scanio la devo raccontare, Leonardo, tieniti forte. Danilo. Ehi, buongiorno a lei. Vai. Allora, il mio dire è questo. Prima volevo rispondere solamente a quel cuoco milanese mezzo meneghino che è 20 anni e qui è compagnia bella. Non soltanto qualche istituzione va salvata e qualche personaggio va salvato, in questo caso gli emigranti, ma bisogna che tutti quanti ci salvino noi italiani, perché questi ogni notte tirano fuori qualche pischera roba, ci mettono una condizione che si sembra di carcerati. Bisogna dire sì e no e andare avanti come vogliono loro. Ci hanno messo in quarantena, cinquantena, sessantena. Prima c'era bisogno di guanti, poi di guanti più. Le mascherine non c'erano. I soldi non arrivano a questa gente poveretta che schioda. Tutti si schioda. Io sono un commerciante, ero un commerciante. Sì. Ho 78 anni, ormai sono belli passato. Però ne ho passati tante, capito? Ora, in questa situazione qua, nessuno è libero, bisogna che ci salvino tutti in qualche maniera, perché tutti siamo in casino. Vabbè, Danilo, raccogliamo questo appello, insomma, aspetti che devo leggere di Pecoraro Scanio che ce l'ho qui, insomma, ci aiutino, però insomma la situazione è complicata, capisco. Ma senti qua, Leonardo, Pecoraro Scanio ministro, te lo ricordi? Adesso, certo, visto che è tornato, era dei Verdi, adesso sì. Ministro dei Verdi, sì, sì, sì. Esatto, capo di gabinetto Roberto Benedetti. Al capo di gabinetto che gli sollecitava la firma di pile di documenti, Pecoraro Scanio rispondeva con piacevoli chiacchierate che spaziavano fino all'elogio della bisessualità. A un certo punto, un giorno, convoca Benedetti e gli dice: caro dottor Benedetti, l'esercito si accinge ad abbattere una ventina di cavalli. È un crimine. Prendiamoli noi. Noi, dice il capo di gabinetto. Sì, facciamoceli dare, teniamoli in vita. Che il capo di gabinetto ligio inizia telefonate al Ministero della Difesa, all'esercito. Il capo di gabinetto della difesa spulcia il regolamento, gli dice: ma noi non possiamo regalare dei beni, serve stabilire un prezzo per i cavalli, un prezzo. Quanto valgono 20 cavalli da battere? Valutazioni, perizie, trattative. Alla fine il capo di gabinetto ce la fa, mette in piedi tutti i documenti, ma alla difesa arriva una telefonata che lo gela. Scoprono, senza un filo di sarcasmo, che l'esercito, procedendo all'inventario nelle scuderie, ha scovato anche l'esistenza di un mulo e chiede che rientri nel pacchetto, non potendo lasciare il mulo da solo. Al che il capo di gabinetto disperato va da Pecoraro Scanio, che dice entusiasta: e prendiamoci anche il mulo! E lì ritelefonate, ridocumenti, riperizie. Alla fine il capo di gabinetto trattiene un pianto isterico, dà le dimissioni e torna alla Corte dei Conti. È capito? Il volere del ministro è assolutamente da rispettare. cavalli. Tra l'altro immagino che i capi di gabinetto non abbiano un proprio credo politico, perché devono adattarsi al governo in carica, no? Quindi sono un po' come gli allenatori di calcio. Sì, ce l'avranno, vanno, ma diventano tifosi di quella squadra. Sì. Sì, tifosi e ligi al rispetto istituzionale. Va bene, cos'è che voleva quell'ascoltatore? Là c'è un ascoltatore prima alpino che ci ha fatto una richiesta sulla quale io Maledetti, temo tantissimo. Cosa quando vuoi? Finisce la quarantena della Fusconi, dove l'avete messa? No! Cucù! No. Cucù! Eccomi! Ciao, buongiorno. Non so se sia colpa dell'ascoltatore a sto punto. No, è il fatto che vi manco e quindi ogni scusa è buona poi per... Non volete ammetterlo platealmente, ma lo capisco. Ti manca, Leonardo? A te manca Elisabetta Fusconi? Beh, moltissimo. Ero abituato a vederla alla mattina. Saluto che democristiano. Ma no, ti spiego. Ero abituato a vederla la mattina quando arrivavo in radio, china sui giornali a lavorare. Bravo, sì. Leo, io ti ringrazio. Sembrava una seguace della tecnica Lucchetti. Finalmente uno che dà un'idea di me corretta. Ti ringrazio, no, Leo. Sto dicendo però che era una variante della tecnica Lucchetti. Ah, no, allora Leo, ma dai, per una volta che te la stavi svangando bene. Io comunque da stamattina che mi sto arrovellando sulle nuove norme per i luoghi di ballo, non me ne faccio una ragione, solo in Italia si può arrivare a normare. Sei fanatica del liscio? Spaccando il capello in quattro. Ma non è il liscio, ma ragazzi, ma qua siamo alla rivincita di quelli che fanno tappezzeria in discoteca, sarà il loro momento, cioè si potrà ballare solo a 2 metri di distanza, è vietato il liscio, sono vietati i lenti. Quelli che stanno col gomito appoggiato al bancone fanno... Esatto, benvenuti alla grande andare al banco, neanche quello, non si potrà andare al bancone, dai, siamo veramente un po' al capello spaccato. Ma perché sei interessata alle discoteche? Adesso va bene, sei giovane, sei sempre giovane, perché sei così interessata a cosa succede nel mondo delle discoteche? Perché non ci metto piede da circa una ventina d'anni, però lo trovo talmente assurdo questo normare appunto spaccando il capello che adesso intendo andarci e godermi lo spettacolo, perché solo in Italia si può pensare che la gente balli a 2 metri di distanza l'uno dall'altro. Beh, dai, ma chi è che va a controllare poi? Se si norma spaccando il capello in quattro, ma nera può entrare. Comunque saremo saremo tutti a fare tappezzeria, è il trionfo degli sfigati sociali quest'estate. Vabbè. Leonardo, ho lavorato tanto io nelle discoteche, i primi tempi in cui lavoravo facevo spettacolo in discoteca, facevo uno spettacolo, si chiamava Goodbye Mississippi, dove ero vestito come un baro del Far West. Ma con tutte quelle P, Leo, scusami, Mississippi, proprio con un'abbondanza di P, ok. È stata una delle cose più amare della mia vita, perché ero vestito come una specie di cowboy, col cinturone e la pistola finta, e dovevo giocare per tutta la sera con delle monete di cioccolato. E dopo 10 minuti già di solito non ne potevo più, avevo tutte le mani sporche di cioccolato, però dovevo andare avanti così tutta la sera con grande amarezza. Quindi notate come lui ha vissuto i propri lavori, cioè il pagliaccio dopo 10 minuti se ne andava, il baro dopo, ma tu hai fatto qualcosa della vita uno. con gioia, con piacere. Quando gli dice di collegarsi il video dice devo stare seduto 1 ora e mezza, ma cosa c'hai? È tutto uno sbattimento. Ma scusa, prova tu a giocare 2 ore con le monete di cioccolato. Ma io non l'ho scelta quella vita. Ma scusa, è come dire prova tu a fare il pagliaccio. Ma sei tu che hai scelto di fare il pagliaccio, non io. Ma per no, bambini. Dopo ho smesso, nel 96 ho smesso di fare feste per bambini e anche di fare il finto cameriere ai matrimoni. Io già devo sopportare Elisabetta Fusconi. Allora, è il mio lavoro. Questa è la fortuna che ti è capitata in vita. Comunque vedo, stanno scrivendo che sarà il trionfo del ballo del mattone quest'estate a 3 metri di distanza. Non l'ho mai fatto, non lo so, lo ignoro. È vero. Mentre è vietato il liscio tra le norme, se ho capito bene. Sì. Il liscio, perché anche il tango ne vinco. Anche il tango. Vabbè. Il cia-cia-cia. Non si sa. Mi mette in difficoltà. Vabbè, ma il cia-cia-cia non prevede un contatto fisico. Sfida Lucchetti. Il cia-cia-cia sarà tra i balli accettati oppure no? È interessante questo. Sicuro posso chiudere la trasmissione. Avremo un tormentone estivo con i 2 metri di distanza. Questo è il ballo del tormentone estivo. Vabbè, torno adesso, a lavorare, Fusco, se mi è consentito. Torna a lavorare, china sui giornali. Com'è che l'hai vista tu? China sui giornali. China sui giornali. Sì, perché c'è la tecnica Lucchetti di chi sfoglia, di chi proprio brandisce i fogli per aria, e chi china in realtà dorme sui giornali. Sì. Ma non è vero, ma per niente. Guarda, buona giornata. Ciao, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, ma ragazzi, non so se ci siamo resi conto, la notizia così di Paul McCartney è un po' passata inosservata, mentre è arrivato qui Spigolino. Mattia, cosa vuoi dire al mondo? Mi raccomando, sei in diretta. Mattia, cosa vuoi dichiarare? Che la scuola è finita? Che godo. Che la scuola sia finita finalmente. Vabbè, ma sai che poi ricomincia, sì. Sai che poi ricomincia. Non è che è finita per Leonardo sempre, deve ricominciare, e sarà più faticosa di prima. Sì, lo so. Vabbè, sarà cos'è sempre che più faticosa. Detto? Sarà sempre più faticosa, sempre più difficile, sempre più complicata. Sì. Cioè, non è che una volta che finisci un anno, poi l'anno dopo è come prima. Ogni gli anno sarà sempre foriero. È piombata l'amarezza in volto. Ogni anno fatto sarà un sorriso, sempre foriero. Si è increspata di maggiore difficoltà. Ma ce l'hai lei... gli è venuta l'amarezza. No, cosa... bisogna dire la verità, ragazzi. No. Sì, ho capito. Pensa sempre più materie complicate, arriverà il momento degli integrali, seno e coseno, cose incomprensibili anche alla mente più aperta. Quindi, non è vero, Mattia, non sarà sempre più difficile, sarà sempre un'apertura verso il sapere, verso il futuro, verso la libertà, verso la crescita. Mamma mia, amaro maniera, io posso capire. Ammesso di riuscire a essere promossi, già l'anno prossimo sarà difficile. Smettila. Comunque, ripeto, è passata un po' inosservata perché l'abbiamo detta al volo, ma è uscita questa notizia di cui ci siamo occupati tantissimo nei giorni scorsi. Questa vicenda di Paul McCartney, mai sentito? Paul McCartney ha detto è una vergogna, quindi difendendo tutti i suoi fan, difendendo tutti coloro che dicono ridateci i soldi, è una vergogna che in Italia sia concessa la possibilità di pagare con un voucher invece che restituire i soldi dei biglietti, eh? È incredibile questa roba. Va bene, vedo che ti appassiona tanto, non ti scaldare, non ti agitare, anche perché spostati adesso, Leonardo, è arrivato. Ah, prima no, devo dire la sfida Lucchetti, interpretazione di Lucchetti, cia cia cia di coppia è vietato, il cia cia cia di gruppo si può fare a debita distanza. Vabbè, interpretazione Lucchetti, quindi non vale. È arrivato, signor... Perché lo dico con questo entusiasmo? Sono Giampaolo, detto Geppo Garosio. Sono tornato perché ieri lei non mi ha fatto terminare il mio pensiero. Sono il leader, il capo del partito super sovranista italiano PSSI. Si pronuncia PSI, mandiamo l'inno per cortesia. Per cortesia. Ecco, cosa ha detto il vostro prezzolato? Non ho sentito cosa ha detto il vostro prezzolato. Allora, io ho fondato il PSI, sono uscito dalla Lega, ma non c'è l'inno. Questa la dice già lunga. Questa la dice già lunga. Allora, sono uscito dalla Lega di Salvini perché Salvini è troppo moderato. Per esempio, sono convinto che Salvini, pur di mangiare la pizza, sarebbe disposto a vederla impastare anche da un pizzaiolo egiziano. Io invece penso che la vera pizza può essere fatta solo da un italiano, italiano vero, altrimenti se me la impasta il faraone, invece di farla lievitare, la mummifica e poi la digerisci tu che sei bravo. Allora, Milan, non mi interrompo oppure abbandono lo studio. No, guardi, sono tornato. Silenzio, non mi interrompo. Io non l'ho interrotta. Attenzione al suo atteggiamento. Niente. Atteggiamento fastidioso. Ecco, questi che mi stanno boicottando, mandano solo l'inizio dell'inno per non far sentire, per non creare il consenso. Ecco. Dai, allora, sono tornato. No, sono tornato. Sono tornato. Per completare il mio pensiero, Pissi, anche tu, esatto, questo è l'inno del partito super sovranista italiano che vuole tutelare gli italiani. Allora, sono tornato per completare il mio pensiero che lei non mi ha permesso di completare, prego, ma prego. Come dicevano i latini, meglio completare quando defincere. Io non definco perché, come dice il proverbio, l'acqua di mare non dissetta neanche i pinguini. Non mi faccia continuare, per cortesia, non mi interrompa, l'acqua di mare non dissetta neanche i pinguini. Non mi interrompa perché è una una parola è troppa e 5 sono poche, perciò io ne dico 10. Allora, io ne dico 10 perché non sono nato ieri, ha capito, caro sì. Milan? No. È inutile che lei ironizzi sulle scatole di tonno chiuse. Se fossi nato ieri sarei un bamboccio, scatole come tanti tonno. Giornalisti al servizio del potere, piegati. Piegati. E allora, invece di fare i giornalisti, andate da fisioterapisti che magari mettono a posto, hai capito? Perché come dice il proverbio, meglio un fisioterapista oggi che una gallina domani, perché guardi che non è mica facile vivere con una gallina, soprattutto se abiti in un appartamento e rischi di calpestare le uova che poi si spiaccicano sui tappeti. Ma lei non lo sa, Milan non lo sa, perché lei è la domestica, ha la domestica che pulisce i tappeti, lei ha la domestica che le pulisce i tappeti, ma non solo non i tappeti, anche le stoviglie lavate a mano, perché lei, essendo radical chic, non ha la lavastoviglie, è vero? Ma lei doveva completare questo discorso, era quello che voleva completare. Che li lava a mano i piatti, perché con essere in piatti li vuole lavare lui, sì, ma poi li lava domestica, mentre il signor Mina sta nella sua torre d'avorio e vede saltare i canguri. Allora, mandiamo l'ino del PIS, gentilmente dalla regia. Allora, perché adesso lei gentilmente, come dice il gran Lateo, quello dell'educazione, lei mi lascia parlare. Il gran Lateo non si invita un ospite solo quando porta il vino, prego, come Garosio. Dice il proverbio latino, in vigna veritas. Ma io dico la Garosio è verità. Io non ho bevuto, Allora voglio parlare finalmente, non mi interrompa. Attenzione. Faccio intervenire le forze dell'ordine. Allora, attenzione, sono lì pronto col dito sul telefono a fare il 112 se mi interrompe. Voglio parlare di quello voglio parlare di quello che ci aspetta tra poco. Bene. Vediamo. Chiaro, posso parlare senza che lei si inserisca continuamente nella conversazione? Allora, zitto sono. Sgorgando ancora? Allora, io non l'ho interrotta per 2 ore. Allora, sta sgorgando l'estate come la nebbia in autunno a Porto Marghera. Lei però non sa, ovviamente, dove è Porto Marghera, perché lì ci vanno i lavoratori veri, no? Non quelli come lei che lavoro vero l'hanno visto col binocolo la sua terrazza dove si diverte a vedere saltare i canguri. Ma come dicono i latini, Deo clapis. Allora, bene, cosa sta per succedere con lo sgorgare dell'estate, la stagione estiva? Succede che torneranno gli extracomunitari in massa sulle coste della nostra Italia. E noi... E noi che siamo governati da gente che sulla carta d'identità ha scritto segno particolare buonista, il nostro governo li accoglierà con rose e fiori sulla spiaggia, serviti e riveriti come dei pascià. Allora io dico, non mi interrompa, abbandono lo studio, me ne vado, ho il dito sul 112. Allora io sono qui per dire, se vuoi fare il pascià, vestiti da pascià con il tornante sulla testa. Questi invece sono incoerenti perché vengono vestiti da senegalesi, ma pretendono il pascianesimo. Sono incoerenti. Vuoi fare il pascià, vieni con il tornante sulla testa. Ma noi li accogliamo. Noi li accogliamo lo stesso tutti quanti perché siamo buonisti e non come dicono i latini con grano vacis. E allora andiamo avanti così fino così? Alla distruzione dell'Italia. Senta, Garosio, fino alla distruzione dell'Italia. Mi sembra un disfattista, mi dire, sembra bisogna quello, essere quello del no, ancora, quello, ancora dai, mi interrompe dai, lei, quando si dicono le geppo vuol dire ma no, verità. No, è che tra 30 dire secondi abbiamo la chiusura della trasmissione. Garosio vuol secondi. Dire verità, mi sì, sembra beh, di adesso essere questo abbastanza poi è da discutere. Di difendere il sentiment vero, difendo il sentiment parla troppo in del latino popolo oggi. Italiano, certo, perché è una cultura, me la son fatti in anni e anni che dico le cose. Sì, sì, io si è visto, certo, se, la cultura. Senta, guardi, Garosio, guardi, io le voglio bene. Chiamo il 112, ecco, me ne vado. Chiamo il 112, io chiamo il 118. Sì. Senti, Alpino, tira giù, basta sto Garosio. Mamma mia, perché ragazzi, altrimenti succede che gli italiani non possono tira giù. Fatemi salutare Manera, dai, che almeno diamo Leonardo. Ma anche tu che gli allora, apri la porta. Allora voglio dire ancora una volta. Mamma mia. Tiralo giù. Basta. Leonardo, lo cacci di casa? Lo puoi uscire fuori dalla porta, per favore? Col kebab che ti bussa alla porta. Mamma mia, kebab, basta. Garosio, basta. Dai, ci fermiamo qui. A domani. nessuno 100.000 anni.